battuti sul cuore. Io ti compro una rosa, mi pisci sul cuore. Io ti regalo una rosa, amore occhi belli, amore che vieni dal mare e c'hai sui capelli l'amaro, l'amaro del sale. Amore assassino, amore con lo steno al petto, hai preso il tuo treno e passi il dito sul grilletto. E io ballo sul filo, vedo la nausea per il vuoto. Io tremo sul filo e nello stomaco c'ho il vetro. E amore che spari e metti ad uno i chiodi. Amore che mi ami e fai la rete con i chiodi. E io il braccio mangiato, specchi nella luna, ho un braccio bucato e tu fai il nido sulla luna. Amore, amore, amore accecato, amore che affili i denti e mi hai masticato, amore con gli occhi spenti. E io guardo una stella mentre rotola nel fiume. Pesco una stella mentre scivola nel fiume. E tu mi sputi sul cuore e io t'ho comprato una rosa. Mi hai pisciato sul cuore e t'ho regalato una rosa. Amore insanguinato, amore che vuoi le pene, amore che mi hai impiccato, amore che mi vuoi bene. Amore avvelenato, che hai già preparato il bicchiere. Amore che m'hai addormentato.